Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. CAP Holding è la società pubblica che garantisce il servizio idrico integrato, quindi parliamo di acquedotti, di fogne, di depurazione e quant'altro, ai 2 milioni di abitanti delle province di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. E lì è in questo territorio che è nata l'iniziativa di cui vi parliamo oggi e che però da quel territorio si sta già estendendo altrove, tanto che pochi giorni fa è esordito anche in Piazza della Signoria a Firenze. Di che cosa parliamo? Insomma, chiamate le fontanelle, chiamate le case dell'acqua, chiamatele un po' come vi pare, perché il nome alla fine conta poco. Ciò che è importante ce lo racconta invece Chiara Albicocco, che ha incontrato Alessandro Ramazzotti, presidente di CAP Holding. Sentite. Sull'acqua, che è un tema centrale, noi abbiamo alcune sofferenze. La prima, i cittadini non hanno in genere la bolletta dell'acqua che arriva a casa, perché nei palazzi, negli appartamenti, le bollette sono di condominio, sì. Mentre la luce, il gas, puntualmente arrivano al consumo. Ogni 2 mesi l'acqua nessuno la vede. L'altra questione è che, ahimè, per il fatto che c'è sempre, che è un bene di cui non si nota mai l'assenza, è un bene scontato, diciamo, e anche per l'uso che ne viene fatto, perché non dimentichiamo che l'acqua che abbiamo in rete è un'acqua buonissima, ecco, infatti. Ma si usa indifferentemente dal rubinetto per berla allo sciacquone. Questo dato così di un bene scontato e del fatto che chissà se poi è buona come le altre, ci ha portato a introdurre questa novità anche che si è rivelata vincente delle case dell'acqua, dove di fatto eroghiamo l'acqua di rete, l'acqua del rubinetto, anche però, e questa è una civetteria, nella versione frizzante. Per chi non l'avesse nel proprio comune, ci dice come si presenta una casa dell'acqua? Guardate, richiamo un po', diciamo così, un'edicola esagonale, piccolina. Un chioschetto. Un chioschetto, bravissima, con un tettuccio, è un po' colorata, con un po' un disegno di fiori, di piante, un po' l'idea di primavera. Con due erogatori, uno di solito a sinistra per l'acqua frizzante e uno a destra per l'acqua di rete, diciamo così, normale. Ecco, il servizio è gratuito? Il servizio noi la diamo a disposizione dei sindaci, perché credo che sappiate che i sindaci sono gli azionisti di CAP. CAP ha 200 comuni soci e i comuni a loro discrezione possono gestirla o interamente gratuita, cosa che noi sconsigliamo, e dirò perché, oppure invece con delle tessere che delimitano il consumo. Per esempio, usando facilmente la tessera sanitaria della Regione Lombardia, si ha la possibilità di prevedere un prelievo, per esempio, settimanale di 6 litri a persona, un modo per avere l'acqua frizzante, però in termini, in quantità contenute. Quindi praticamente gratuito per chi è residente, ecco. Gratuito non mi piace, io preferisco che sia o limitata o a pagamento. Ecco, perché gratuito non le piace? Perché spesso i beni gratuiti vengono consumati male. Perché l'acqua anche per mettere al centro il risparmio dell'acqua, e il fatto che è buona, il fatto che si beve, il fatto che è frizzante, può richiamare meglio, insieme ad altre iniziative con le scuole, il fatto che non ce n'è tantissima nel mondo e che noi che ne abbiamo siamo fortunati. Dobbiamo anche pensare che risparmiarla è anche una, fa bene, perché col tempo che passa e con l'uso che ne facciamo e con le esigenze che abbiamo, di acqua ce ne sarà sempre meno. E non solo, con questo tipo di distribuzione vengono, diciamo, a mancare tutti gli scarti, quindi le bottiglie di plastica, esatto. Le bottigliette dell'acqua gasata, che a me piace molto ricordare, che noi diciamo che quest'acqua è a chilometro zero. Le do alcune cifre. Una casa dell'acqua in un comune di media grandezza, 20-25 mila abitanti, consuma, risparmia mediamente 1700 bottiglie al giorno. Facendo una rapida moltiplicazione, sono 50.000 bottiglie al mese, stiamo parlando di 600.000 bottiglie di plastica risparmiate all'anno. Di una cittadina, insomma, dove, come in Italia ce ne sono tante. Pochi sanno che in Italia, nel nostro bel paese, circolano circa 300.000, 50.000 TIR che vanno da Val d'Aosta in Sicilia e ritorno per portare l'acqua in bottiglia. E questa è proprio anche un po' una prerogativa italiana, perché negli altri paesi non è così. No, fra l'altro siamo insieme a, udite udite, all'Arabia Saudita e al Messico, i più grandi consumatori di acqua in bottiglia del mondo. Ecco, e quindi la vostra... Capisco, il Messico, sono d'accordo, l'Italia mi suona un po' stravagante. Ecco. Io volevo precisare che noi non siamo in concorrenza con l'acqua in bottiglia, cioè nel senso che noi riteniamo che l'acqua in bottiglia siano delle ottime acque, tra l'altro un settore molto importante dell'economia italiana, un fatturato di circa 2,5 miliardi di euro, dà da lavoro a tante persone. Noi non siamo in concorrenza, noi diciamo semplicemente anche l'acqua di rete è buona, assaggiatela e poi bevete quella che preferite. Ecco, infatti la vostra iniziativa diciamo che è lodevole sotto questo aspetto, certo. Però diceva che non vogliamo dire che è gratuita perché ci sono stati casi appunto di spreco, ovviamente, perché noi non vogliamo che sia gratuita, ecco. È chiaro che poi siccome la mettiamo a disposizione dei sindaci poi loro ne fanno un po', siccome poi la gestione, il consumo, perché l'acqua poi consumata si paga comunque, è a carico delle amministrazioni pubbliche, è chiaro, lì c'è un contatore, se l'acqua viene consumata il comune deve pagarla, certo. È nella prerogativa dei sindaci. Dico anche che stiamo convincendo ormai i sindaci ad installarle con o le monetine oppure col limitatore. Le ultime che abbiamo fatto sono tutte col limitatore di erogazione. Ma perché, Presidente, diciamo che più di 6 litri, più di un tot, sì. È meglio non conservarla l'acqua del rubinetto per parecchi giorni, perché non ha senso. Nelle 48 ore non ha senso tenerla lì tutta la settimana. Si prende anche perché così si esce di casa, si prende la bicicletta, ecco. Gli anziani. Sono anche un'occasione di socializzazione nelle case dell'acqua. Presidente, questo modello è funzionale perché si sta un po' diffondendo, oltre è partito dalla Lombardia ma sta arrivando in Piemonte, in Toscana, ma diciamo che sta superando anche i confini di Stato perché voi siete andato a presentarlo addirittura a Parigi. Sì, ma è perché questa è la prerogativa degli italiani. Noi parliamo molto male di noi stessi, però voi invece... gli altri ci apprezzano. A Parigi l'abbiamo installata, la chiamano la pétillante, che vuol dire la frizzante, la gasata, e adesso stiamo ragionando col Bruxelles, lì c'è una grossa azienda dell'acqua pubblica con cui abbiamo rapporti, che è Vivacqua, e stiamo ragionando se installare. Ce l'hanno chiesto anche a Grenoble. Stiamo diffondendo una intuizione italiana anche in altri paesi europei. Beh, insomma, finalmente anche l'acqua del sindaco ha le bollicine. Chissà che questo non cambi anche un po' di abitudini nostrane. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.